Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno, finalmente insieme. Eccoci insieme a me, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi Alberto affrontiamo un problema che rappresenta forse uno dei pochi temi che non fa distinzioni di genere, etnia, fascia d'età, stato sociale, colorazione politica, nazione d'appartenenza. Parliamo di sicurezza stradale. Sì, è un problema che naturalmente noi genitori viviamo con grande ansia quando i nostri figli cominciano a diventare responsabili della guida di un motoveicolo o addirittura di un autoveicolo. Ne parliamo periodicamente a Questa casa non è un albergo perché sono tantissimi i genitori che chiedono spesso anche consigli educativi. Partiamo dalle cifre che sono proprio la causa di tanta preoccupazione e ascoltiamo i dati ufficiali. I dati ufficiali ACI-Istat dicono che nel 2008 in Italia sono state registrate ben 4.731 vittime provocate da incidenti stradali. In 10 anni, per morti da incidente stradale, è come se fossero state strappate dalla carta geografica dell'Italia città come Pordenone, Avellino, Legnano. Gli incidenti stradali si confermano prima causa di morte per i giovani. 1.339 persone, il 28% del totale, che hanno perso la vita sulle nostre strade, avevano meno di 30 anni. Inoltre, il 37,5% dei feriti, pari a 116.179, sono under 30. Alberto, dati che si commentano da soli, più di 1.400 morti tra i giovani, più di 110.000 feriti tra gli under 30. Insomma, c'è bisogno, come abbiamo fatto e ripetuto tante volte qui ai questi microfoni, di protezione e prevenzione e di una cultura della sicurezza. Sì, non dobbiamo trascurare che c'è un costo sociale elevatissimo nel momento in cui un ragazzo, un giovane, trova la propria vita bloccata, se non addirittura distrutta da un incidente stradale, e fondamentalmente poi i ragazzi sono promotori della cultura della sicurezza all'interno del loro gruppo di pari. Quindi riuscire a toccare con una prevenzione adeguata chi sta crescendo significa fare un'operazione culturale che probabilmente è un vero e proprio investimento nel capitale di salute e benessere dei ragazzi di questa età. E allora noi cerchiamo di fare, come si dice, la nostra parte, perché lo sappiamo, anche i media svolgono sicuramente un ruolo importante in questo contesto. Condividiamo questa responsabilità con la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, nata nel 2004 proprio per volontà delle compagnie di assicurazione, con un unico scopo: ridurre le vittime e l'incidentalità stradale. E in linea con noi abbiamo il dottor Sandro Salvati, che è presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottore, vorrei parlare con lei, insieme ad Alberto, di un progetto che ha un titolo che non lascia assolutamente indifferenti. La vita è una cosa meravigliosa. Partiamo dal titolo, che mi sembra assolutamente azzeccato. Ma sì, dunque, il titolo innanzitutto ricorda il titolo di un celeberrimo film degli anni 40, e vuole essere un messaggio positivo. Noi definiamo questo un piccolo grande libro perché vuole celebrare il valore della vita contro le morti tra le più stupide e inutili che conosciamo, quelle sulle strade. Avete detto molto bene, molto con molta precisione, gli incidenti stradali sono la prima emergenza del nostro paese. Avete illustrato le statistiche che sono agghiaccianti. Ecco, io vorrei sottolineare un punto, è che purtroppo questa, tra le altre cose, è una strage a puntate settimanali. Questo porta spesso i cittadini, il largo pubblico e anche i media ad avere una consapevolezza attenuata. Se io dico però che i morti per incidente stradale nel 2009 sono stati quasi 18 volte i morti del terremoto d'Abruzzo, forse questo colpisce un po' di più la sensibilità nostra, di tutti noi, ascoltatori, cittadini, persone normali. L'altro dato agghiacciante è quello relativo ai giovani. Sappiamo tutti che stiamo diventando, tra qualche anno saremo il paese più vecchio d'Europa, e la mia domanda è sempre la stessa: ma fino a quando un paese come il nostro può davvero tollerare di bruciare in un incendio stupido, sciocco, brutale e inutile, 1400 giovani all'anno? Questa è veramente un'emergenza, è veramente una strage inutile che bisogna fermare. Chiaramente servono tantissime misure, non basta un libro, come non basta questa vostra pur lodevole trasmissione. Occorrono i controlli, bisogna rafforzare i controlli. Le forze dell'ordine fanno già molto, ma bisogna aumentarle. Tutti noi ci dobbiamo rendere conto che le regole vanno osservate. Io dico ai giovani, quando parlo con loro, attenzione, la strada non è una PlayStation, non c'è il bottone del rewind. Quando è successo non si torna indietro. L'altra cosa, e l'avete detto molto bene, è quello di aumentare la consapevolezza, quindi la formazione e l'educazione dei giovani, ma non solo loro. Bisogna capire in questo benedetto e bel paese che le regole vanno rispettate sempre, senza si muore. Dottor Salvati, lei lo sa che questa casa non è un albergo, si rivolge ai genitori in ascolto. Da genitore ai genitori, quindi, che messaggio vuole dare? Io dico sempre, io me ne scuso, mi scuso con voi, mi scuso con gli ascoltatori, ma su questo tema non riesco a non parlare forte e chiaro e anche brutale. Ai genitori dico: non dimentichiamo di assolvere non solo i genitori, anche la scuola deve fare di più, le istituzioni debbono fare di più il mestiere fondamentale, che è quello di educare al rispetto delle regole fin da piccolissimi. È un valore importante per coloro che poi prenderanno un mezzo più potente e più difficile da guidare. E allora io ai genitori dico: più regole, più educazione, più prediche fino al venerdì, meno cippi e fiori il lunedì mattina. E a proposito di messaggi che probabilmente colgono l'essenza del problema, vorremmo farvi ascoltare un breve estratto dal libro La vita è una cosa meravigliosa, che è proprio il documento che accompagna il progetto che la Fondazione ANIA ha promosso per la prevenzione degli incidenti stradali. Amo la vita per quello che è, per quello che dà. Amo la vita in ogni respiro e a ogni battito. Amo la vita beffarda e bugiarda. Amo la vita meravigliosamente misteriosa e tragicamente imprevedibile. Amo la vita giorno dopo giorno, incommensurabile bagaglio di esperienza, di ricordi e conoscenza, inestimabile valore, irripetibile avventura. Dottor Salvati, un commento a caldo di questa lettura che tocca il cuore di tutti noi. Ma devo dire la verità, dall'inizio di questo progetto, che sta ottenendo un successo grandissimo, siamo alla seconda edizione del libro, ovviamente noi abbiamo rinunciato a ogni provento economico. Io personalmente, dopo 40 anni che mi occupo di rischio, di probabilità e di incidenti, sono rimasto toccato dalla sensibilità delle persone comuni. Nel libro, come avete detto, ci sono frasi di personaggi celebri, da Gandhi a Einstein a Madre Teresa di Calcutta, ma devo dire la verità che le cose che hanno colpito di più le mie emozioni sono state le parole di chi ha mandato una frase, una poesia, un pensiero. E sa perché? Perché erano persone che purtroppo erano state toccate. Allora il messaggio che io vorrei mandare in questa vostra civilissima e bella trasmissione è esattamente questo: prima di reagire a qualcosa che ci ha toccato, agiamo per fare in modo che tocchi sempre di meno, che veramente questa stupida strage a puntate possa essere combattuta e ridotta drasticamente nelle sue dimensioni di emergenza. Dottor Salvati, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro e continuate così. Aiutateci a coltivare la cultura della prevenzione. Questa è una frase bellissima e noi lo prendiamo come un messaggio a fare sempre di più e sempre meglio. Grazie a voi. Grazie a lei. Buon lavoro. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo. La vita è come la strada. Ogni metro percorso ne fa intravedere un altro, sempre nuovo, misterioso ed emozionante da scoprire. Non ti dirò stai attento, non ti dirò vai piano. Ti dico sii contento di vivere, perché ogni giorno è una scoperta. Quando guidi non giocare, perché è la tua stessa vita che metti in gioco. Alberto, un tema, quello che affrontiamo oggi, purtroppo sempre di grande attualità. Abbiamo dato i numeri, li abbiamo letti, e il dottor Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, ha detto che sulle strade muoiono più persone del terremoto d'Abruzzo. Sono dati che in fondo ci fanno riflettere molto di più quando vengono paragonati a degli eventi così catastrofici come è stato il terremoto. Sì, e su cui è fondamentale tenere alto il tasso di consapevolezza, non abituarci proprio a questo stillicidio continuo che ogni lunedì mattina magari ci risveglia con le notizie degli incidenti del weekend, un po' come se ormai fosse un dato naturale. E per i nostri figli possiamo davvero fare cose da genitori, scelte educative che aumentano la loro possibilità di autoproteggersi e soprattutto nel gioco della vita non fanno giocare la vita per troppa superficialità. A questo tema noi abbiamo dedicato numerose puntate, Alberto, e tra l'altro una trasmissione in particolare che vorremmo in parte risentire oggi, alcuni brevi estratti, che è partita proprio da una mail di un ascoltatore che ci ha fatto molto riflettere. Mio figlio Luca tra 3 mesi compirà 18 anni e ha già messo le mani avanti. Vuole fare la patente automobilistica appena possibile, senza perdere nemmeno un giorno. Tutto a posto, penserete voi, normale che un fresco 18enne voglia subito fare la patente. E no, perché c'è un piccolo problema. Luca, mio figlio, ha già nel suo curriculum vitae 2 incidenti di moto dove non si è fatto nulla, ma ha sfasciato 2 motoveicoli. Come papà sono molto spaventato. I 2 incidenti sono stati il frutto della sua imperizia e della sua spavalderia. Non voglio che si metta nei pasticci. Vorrei vietargli di fare la patente. Faccio bene secondo voi? Alberto, fa bene secondo te? Io ormai una la patente l'ha fatta e non aveva il motoveicolo, come scrive il nostro ascoltatore, non è mai andato in motorino. L'altra fra poco compie 18 anni e gli tocca iscriverla, quindi... Credo che questa sia proprio una domanda da $1 milioni, considerato il curriculum vitae di questo ragazzo. Credo che sia una domanda che interessa molto i nostri genitori, cioè compiere 18 anni significa automaticamente essere pronti per fare questo passo, e che cosa deve verificare eventualmente un genitore rispetto a quanto suo figlio è pronto per prendere la patente? Poi prendere la patente vuol dire in automatico potersi mettere al volante di qualsiasi automobile guidare? Di qualsiasi automobile no, però se prendi la patente... Di un'automobile familiare guidare? Che dici? No, secondo me non è automatico. Quando hai preso la patente tu? Io in zona 18 anni, ecco. Anch'io ero senza motoveicolo. Allora, abbiamo prima delle idee un po' lontane, quindi abbiamo bisogno che ci aiuti a fare un po' chiarezza su questo tema. Abbiamo in linea con noi la professoressa Paola Carbone, psichiatra, professora associata alla facoltà di psicologia dell'Università La Sapienza. Buongiorno. Buongiorno. Professoressa, io direi non siamo parenti, ma magari una lontana parentela c'è. Imparentiamoci in diretta. Volentieri. Benissimo. Allora, quindi una mia lontana parente, Alberto, posso dire, che ha molto lavorato su questo tema, da poco pubblicato la nuova edizione per Bollati e Boringhieri del libro Le ali di Icaro, per proprio capire e prevenire gli incidenti stradali dei giovani. Allora, professoressa Carbone, mi fa un certo effetto chiamarla così, ma si chiama così. Professoressa, lei da che parte sta? 18 anni, con qualche incidente di motorino negli anni precedenti. Lei che farebbe al posto del nostro genitore? Noi abbiamo una lettera molto interessante, una lettera che però non ci dice tante cose, ce ne dice alcune, non ce ne dice altre, che sono quelle che noi cerchiamo di capire quando incontriamo i ragazzi. E quello che noi abbiamo capito incontrando i ragazzi e quindi parlando con loro a lungo della loro vita, di loro stessi, è che può esserci una miscela pericolosa tra l'incidente ripetuto ed è il caso del genitore che ha scritto del figlio, no? Che ha già avuto 2 incidenti di moto, e altri indicatori di rischio, di cui invece nella lettera noi non abbiamo notizia perché il genitore non ce ne parla. Questi altri indicatori di rischio hanno a che fare con diciamo, gli impegni fondamentali che i giovani devono realizzare nel corso della loro adolescenza. Per esempio, mi verrebbe da chiedere a questo signore come è andato il percorso scolastico del figlio, avere anche qualche informazione sull'eventuale uso di alcol o di altre sostanze. Queste certo. informazioni noi in questo momento non le abbiamo e quindi non possiamo dire, come giustamente infatti anche voi vi schieravate su due fronti opposti, se è bene realizzare questo desiderio di Luca di avere subito la patente e subito la macchina, oppure è meglio rimandare. Non possiamo dirlo in questo caso specifico, ma possiamo allargare il tema forse sulle dinamiche più generali del fenomeno. Le dinamiche sono queste, che l'incidente, soprattutto se è ripetuto, non può essere preso come un evento fortuito, casuale, insomma, espressione di una certa sfortuna. Lo stesso padre che scrive la lettera infatti ci dà un indizio, ci dice che il figlio è stato piuttosto sventato e poco diciamo responsabile nell'affrontare la guida della moto. Sì, infatti ci scrive: frutto della sua imperizia e della sua spavalderia. Quindi, professoressa Carbone, lei ci invita come genitori a proprio fare un check di nostro figlio. Mi è piaciuto e mi ha interessato molto quando lei ha sottolineato l'andamento scolastico, le relazioni familiari, anche se è capace, no, di essere responsabile, di mantenere la parola, di essere leale. Alberto, quindi sì, tante indicazioni per questo tassello. Mi sa che alla fine poi questo ragazzo la patente non la fa. Ecco, comunque, mi pongo proprio nelle condizioni di un padre che, sentendo la sua checklist, si rende conto che forse suo figlio ha ancora un po' di strada da percorrere prima di mettersi su un'automobile e percorrere una strada con un autoveicolo. Quindi, secondo lei, un genitore ha diritto di dire a suo figlio, anche se compi 18 anni, non credo che tu sia pronto, e quindi aspettiamo un po' prima di concederti il permesso di fare la patente? Ma io penso che non solo ne abbia il diritto, ma in un certo senso ne ha anche il dovere, perché in fondo noi negli ultimi 20 anni immaginiamo che i doveri genitoriali siano prevalentemente quelli di seguire le inclinazioni dei figli e sostenerli nella realizzazione. Quindi diciamo dei doveri oblativi, che naturalmente sono fondamentali e molto importanti. Però c'è anche il dovere di porre dei limiti, di indicare dei limiti, e questo forse è un dovere al quale molti adulti si sottraggono per la paura di essere, tra virgolette, uso questo termine, privati dell'amore dei figli. È una sorta di ricatto. Sì, molto spesso legato anche al fatto che si sentono a loro volta un po' in colpa, perché forse la vita familiare che hanno offerto ai figli non è quella vita di presenza, di continuità, di affetti condivisi, di dialoghi condivisi, che in modo un po' idealistico immaginano essere la vita ideale che i figli dovrebbero ricevere. Alberto. Sì, credo che forse questa lettera e la richiesta del figlio ci aiuta anche a riflettere sul concetto del tutto e subito, al quale spesso ci premono i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita. La cosa che mi colpisce di questa lettera è fondamentalmente immaginare che questo ragazzo ha sfasciato due motoveicoli e ne ha praticamente riavuti due nuovi al compimento del 18° anno. Lui si sente pronto ad avere subito tutto, patente, probabilmente immagina anche un'automobile. Forse si può proprio ripartire dall'idea che è bene rallentare le cose, cioè considerato quello che ti è successo, considerato che abbiamo già speso parecchio denaro per comprarti due motoveicoli, facciamo diventare la conquista della patente un percorso un po' rallentato che tu ti devi conquistare. Perciò la patente, per esempio, te la puoi proprio guadagnare, potresti guadagnare del denaro per farla diventare un tuo traguardo, e così pure direi potremmo mettere sotto contratto l'eventuale acquisto dell'automobile. Nel momento in cui io faccio un percorso che mi farà conquistare un traguardo, credo che forse automaticamente divento anche un po' più responsabile. Professoressa Carbone, lei che dice? Potrebbe essere una buona idea? Sono molto d'accordo, perché mi pare che proprio nel termine responsabile noi implichiamo che l'altro, che il figlio in questi casi, ha abbia una capacità di rispondere e quindi non solo di ricevere, certo, ma possa diventare parte attiva di un progetto. Se lui diventa parte attiva del progetto, non solo guiderà l'automobile, ma soprattutto guiderà la sua vita. E sicuramente questo è il punto fondamentale, e questo è il punto fondamentale. Gli diamo una seconda chance, non colpevolizzandolo troppo, perché Alberto ha ragione, io concordo molto con lui, ma devo dire, professoressa Carbone, che Alberto tante volte è molto severo e gioco forza. Devo fare un po' questo ruolo di mamma dalle maniche larghe. Poi le mie figlie a casa dicono: sì, però tu alla radio sempre così aperta e poi invece con noi. Credo però che sia molto vero anche un po' questa definizione dei ruoli. Tu che sei la mamma della nostra trasmissione, quindi probabilmente ti giochi con una sponda un po' più affettiva, io faccio un po' il papà e quindi magari presidio un po' di più la norma e la regola. A proposito di norme e regole, c'è un'iniziativa che ci ha molto molto colpito mentre preparavamo la trasmissione. Sì, devo dire che anche questa mettiamo il nostro bollino blu. Sì, assolutamente. Di qualità. Abbiamo in linea con noi il direttore del Centro Motoroasi Piemonte, il dottor Ezio Pignatta. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei e benvenuto. Con lei andiamo ai corsi di guida sicura per i neopatentati. Sì, esattamente. Diciamo che io sono direttore generale di Motoroasi, che è la società partecipata dalla Regione Piemonte. Sì. Che opera nei corsi di guida sicura, eroga servizi di guida sicura per i giovani, in particolare neopatentati, su un impianto, direi, allo stato dell'arte che si trova a Susa, in provincia di Torino, e che opera dal 2002. Questa casa non è un albergo. Patente a 18 anni, Alberto, abbiamo visto che partendo proprio dalla lettera del nostro ascoltatore, quanti aspetti, quante sfumature sono venute fuori dalla nostra chiacchierata insieme ai nostri ospiti, che ricordo sono il dottor Pignatta, che è direttore del Centro Motoroasi Piemonte, e dalla professoressa Carbone. Come funziona? Come fanno ad arrivare i neopatentati da voi? Chi li manda? O è un'iniziativa, ecco, della famiglia? Insomma, vorrei arrivare a dire se sono gratuiti, se sono offerti dalla regione, se sono a pagamento. Sicuramente gratuiti, offerti dalla regione Piemonte, sì, assolutamente gratuiti. Il tema è la fatica che noi facciamo nel raggiungere i giovani, nel convincerli che questo è, diciamo, cosa buona e giusta, perché tra l'altro dovete sapere che i nostri corsi non trattano e non, i nostri esercizi sono fatti assolutamente a bassa velocità, sotto i 50 km all'ora, e questi esercizi in particolare servono a dimostrare ai ragazzi che il controllo può diventare già assolutamente difficoltoso a bassa velocità della propria auto. Perché mi dice la fatica? La fatica perché noi quest'anno, le faccio un esempio, abbiamo usato dei canali che sono SMS piuttosto che email, piuttosto che banner di varia natura, con dei risultati estremamente bassi. Cioè abbiamo cercato di fare una comunicazione one to one ai giovani dotati dei requisiti e i giovani hanno risposto, direi, blandamente. Allora io le metto a disposizione Alberto Pellai e la professoressa Carbone. Attivatevi. Sì. Che cosa è mancato nella comunicazione? Professoressa Carbone, magari potrebbe lei suggerire un'idea al nostro dottor Pignatta? Intanto mi fa piacere di conoscere, seppure attraverso questo canale, il dottor Pignatta. Io farei un'ipotesi che i nostri giovani sono bombardati da un rumore assordante di informazioni di tutti i generi e che di SMS ne ricevono tantissimi, per esempio, dico questa, sì, ipotesi, e che proprio perché c'è questo flusso di offerte che li seduce a tanti livelli, restano frastornati e non riescono a cogliere l'offerta importante, quella che potrebbe veramente cambiare il corso della loro vita, tra le tante. Credo che purtroppo il vecchio e buon metodo della comunicazione davvero diretta, cioè personale, in cui c'è l'altro di fronte a noi, sia il migliore. Noi per esempio pensiamo che entrare in un gruppo classe, in una classe, e parlare direttamente vis-à-vis, essendo fisicamente lì con gli allievi, possa aiutarli a cogliere di più l'offerta e la possibilità. Alberto, abbiamo scoperto il lato mammesco della professoressa Carbone. Che cosa suggerisci tu? Ma io credo che una buona idea potrebbe essere quella di mandare ragazzi che hanno già fatto il loro corso di guida sicura per neopatentati ad una lezione di scuola guida per futuri neopatentati e raccontare la loro esperienza, che cosa pensavano di trovare in quel corso, cosa hanno realmente trovato. Quindi cosa dei hanno testimonial, imparato. Dei giovani testimonial proprio alla pari e mi piacerebbe anche, forse loro non sanno realmente che cosa faranno nella giornata in cui frequentano questo corso. Dottor Pignata, Alberto muore dalla voglia di sapere se può venire anche lui ad un vostro corso perché è curioso, giustamente. Siete invitati tutti e tre. Ah, magnifico. Allora, che quindi cosa questo ci farà fare? Ma dunque, innanzitutto volevo rassicurare tutti dicendo che con questo, nonostante il tentativo in salita a livello di comunicazione, quest'anno abbiamo fatto un grande lavoro con le scuole e siamo riusciti a, in collaborazione con l'ufficio regionale scolastico, a portare quasi tutti i 3.000 ragazzi che avevamo pianificato, perché sostanzialmente li andiamo a prelevare dagli istituti scolastici di concerto con i responsabili della guida sicura, che ho scoperto che la Regione Piemonte ha nominato per ogni singolo istituto, e quindi siamo riusciti a fare un grande lavoro. Quindi bisogna comunicare, ha ragione la professoressa, direttamente con loro, one to one, in questo modo. Sì. Per quello che riguarda corsi di guida sicura, sono dei corsi che vengono fatti, come dicevo, con esercizi a bassa velocità su sfondi sdrucciolevoli e praticamente l'obiettivo è quello di insegnare a mantenere il controllo della propria automobile in condizioni estreme, con strade sdrucciolose o con possibili ostacoli da evitare improvvisamente. Dottor... in sintesi, molto interessante, perché ripeto che se voi verrete e ci farete onore di farci visita, vedrete che a soli 50 km all'ora si perde già il controllo di un'automobile in curva su un fondo sdrucciolevole. Quindi i ragazzi ne escono fuori assolutamente impressionati e abbiamo dei riscontri, un feedback assolutamente positivo, sia dai ragazzi che dai genitori che molto spesso vengono ad assistere. Nelle scuole aprite anche, cercate di sottolineare l'importanza di una guida sicura che parte anche da uno stile di vita adeguato. Assolutamente sì, noi stiamo facendo lo sviluppo di un progetto europeo per cercare di diffondere il più possibile uno stile di vita, direi, salubre, e quindi invito tutti i ragazzi che ci ascoltano, i genitori, di attuare dei comportamenti di grande moderazione rispetto per esempio all'alcol, che è una delle cause principali. Lei tenga presente che ad un livello minimo di assunzione di alcol, una frenata che può ritardare di un secondo allunga di più di 50 metri lo spazio di frenata. Professoressa Carbone, qua abbiamo bisogno anche di lei. Come si può educare? Come può la famiglia far passare questo messaggio che ha tutti contro praticamente, no? Della comunità dei giovani, tutti sanno che divertimento è spesso alcol, è spesso trasgressione. Sì, bisogna anche riconoscere che la famiglia, quando i ragazzi cominciano ad avere 16, 17, 18 anni, perde temporaneamente il suo influsso sui figli. Quindi non credo che si possano sempre colpevolizzare i genitori quando i figli hanno dei comportamenti che non sono in linea con le indicazioni o con lo stile di vita familiare. Sì. Sappiamo che c'è una fase dell'esistenza, l'adolescenza, in cui i ragazzi tendono a valutare completamente sbagliato, superato, inutile tutto quello che gli dicono i genitori, e quindi i genitori perdono un po' la presa sulla vita dei figli. Penso che questa cosa non la si può appunto addebitare né ai figli né ai genitori, ma che bisogna aggirarla. Allora mi pare che la scuola dovrebbe in qualche modo sopperire a questa crisi dell'autorità genitoriale, che è abbastanza naturale, abbastanza fisiologica, perché per un ragazzo può essere più accettabile un discorso che venga da un adulto che sta idealizzando in quel momento, il professore che gli è simpatico, o dal gruppo classe ancor di più. Certo. E quindi far leva su altre forze per aiutare i ragazzi a assumere un atteggiamento più consapevole nei confronti dei tanti rischi a cui la loro giovinezza li espone. Quindi molto probabilmente le lezioni che, e le informazioni che arrivano dal gruppo del dottor Pignatta forse hanno anche, e ci auguriamo, anche questa funzione. Dottor Pignatta, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e soprattutto un buon lavoro. Grazie a voi. E io saluto Roberto Sgalla, buongiorno, che è in linea con noi. Buongiorno a tutti voi. Dirigente superiore della Polizia di Stato e direttore del Servizio Polizia Stradale, tra l'altro autore, Alberto, di una serie di guide pubblicate da Ericsson che fanno proprio al caso nostro, insomma ha pensato a noi. Sì, sono guide pratiche per l'educazione stradale, porta l'educazione stradale a scuola, tra l'altro la porta non solo nella scuola secondaria ma anche nella scuola primaria. Ci incuriosisce molto questo fatto: è possibile prevenire gli incidenti di un neopatentato già cominciando a formarlo quando è alla scuola elementare, quando ha 6-8 anni? Sì, sicuramente si può e si deve fare. Bisogna educare i bambini fin dalle tenere età a due aspetti: al senso del limite e al concetto che rispettare una regola conviene. Rispettare una regola vuol dire non avere un incidente, vuol dire non farsi male per un bambino, vuol dire non perdere un affetto. Sono valori che il bambino in cui crede. È evidente che le modalità sono importanti, modalità molto adatte al bambino, quindi il gioco, il disegno, l'uso di strumenti didattici a lui conosciuti, il quaderno, la penna, i colori, i video. Attraverso questi strumenti si può arrivare a far crescere un bambino nella consapevolezza del limite e della convenienza nel rispetto della regola. Naturalmente, dottor Sgalla, questi sono dei valori e sono dei principi che vanno comunque coltivati anche nelle classi superiori. Sì, infatti le guide, diceva prima, ne sono già uscite due, scuola primaria, scuola media superiore, nel 2010, proprio all'interno di un progetto nazionale che noi facciamo, che si chiama Icaro, è un progetto che coinvolge ormai oltre 50.000 ragazzi, ha coinvolto tutte le città d'Italia attraverso una carovana, faremo la guida per le scuole medie inferiori, quindi avremo coperto tutto l'arco di età scolastica, proprio nella convinzione che deve essere un cammino lungo, continuo, non può essere sporadico, lasciato solo allo spot pur importante o alla campagna di un mese, deve essere un percorso che accompagni il giovane dall'inizio, da quando è pedone, da quando attraversa le strisce, al momento in cui prende un motorino, all'indomani della patente. Ecco, un'educazione continua. Non è mai troppo presto per iniziare e poi comunque bisogna continuare. Ringrazio il dottor Sgalla per essere stato con noi. Grazie dottore. Grazie a voi, buongiorno. Ringrazio la mia nuova parente allora, professoressa Carbone. Ci sentiremo presto, sicuramente per gli auguri di Natale, come conviene. Certamente. Grazie per il suo lavoro e per la sua partecipazione. Arrivederci. Un abbraccio allora da Nicoletta Carbone. Ed Alberto Pellai.